che fra il sesso e la chiromanzia ci sia un rapporto occulto mi sembra ormai assodato. Basterebbe a dimostrarlo il fatto ben noto che nella rubrica dei quotidiani specificamente dedicata alla chiromanzia viene ospitata propaganda esplicitamente rivolta alla lettura delle mani e dall'interrogazione degli astri e implicitamente invece rivolta alla lettura di organi meno prensili e dall'interrogazione dei portafogli. I nomi in locandina d'altronde più che richiamare ministri di culti esoterici sembrano nomi di quella popolare mitologia del sesso che se da un lato può eccitare qualche fantasia dall'altro può anche ancora proteggere un'intimità e una privatezza peraltro ampiamente compromesse. Ci fu un momento storico qualche anno fa in cui scoccò la fatale ora dell'esodo, no? E le Chantal, le Monique, le Frufru e le Jasmine, nomi che testimoniavano quanto alla Francia toccasse la parte del leone in questo genere di transazioni, si ritrovarono tutte da massaggiatrici che fingevano d'essere a chiromanti che continuavano a fingere di essere. Di certo ci guadagnarono perlomeno nell'amor proprio. È più difficile distinguersi nell'arte del massaggio che non nell'arte della chiromanzia. L'uno verte sul presente, l'altra sul futuro. Fatto sta che il legame fra sesso e astri ne venne saldato e quanto avviene oggi di questa saldatura ne è semplicemente la conferma su scala industriale. Mi riferisco alle pagine dei quotidiani e dall'evoluzione dell'offerta sessuale in questa nostra epoca presente in cui il contatto carnale sembra portare alla tomba con un margine di sicurezza ben maggiore di quanto accadesse nel passato. A quanto pare oggi il sesso si fa per telefono, in intercontinentale, forse per dar più brivido alla questione. Non c'è altra abbondanza che di numeri telefonici lunghissimi. In offerta sarebbero voci femminili che, rese edotte in erotismo e telefonia, otterrebbero a mezzo di un flatus vocis ciò che altre più antiquate e meno provvedute ottengono a mezzo di tutta l'entelechia aristotelica frattaglie incluse. E insieme alle pubblicità del sessuotelefono ci sono quelle astrologiche. Anche queste con numeri lunghissimi e spazi imponenti e costosissimi. Tanto perché se ne abbia un'idea, riferirò della tabellina della settimana appena trascorsa. Ci se ne farà un'idea come fenomeno di ordine socio-economico e ci si porranno un pochi problemi di ordine ideologico. Allora, la settimana... Ecco, facciamo cominciare la settimana con il lunedì. E sul Corriere della Sera, tanto per prenderne uno autorevole, sul Corriere della Sera di lunedì registriamo 11 inserti pubblicitari per il sesso contro 3 per l'astrologia. Il martedì si scende a 8 per il sesso e ad 1 per l'astrologia. Mercoledì si risale a 11 a 1. Il giovedì 11 a 2, il venerdì 11 a 1, il sabato si ridiscende 7 a 1 e infine la domenica, la domenica è tragica, si sprofonda 2 a 1. Si potrebbe parlare di un trend piuttosto regolare se non fosse per il calo del martedì. Calo che tuttavia potrebbe essere sanato dall'impennata di 15 inserti a 1 sulla Gazzetta dello Sport, che del Corriere è la sorellina rosa, diciamo. E se sistemiamo così l'incongruenza, otteniamo uno spaccato ideologico di indubbio interesse. Dal lunedì alla domenica la settimana è in discesa sessuale, o meglio, il sesso alla settimana corta. E pur nel suo piccolo, la chiromanzia ne segue l'andazzo. Corro allora, a mo' di verifica, corro allora alla voce chiromanzia negli annunci economici e constato che se venerdì le offerte erano 43, sabato sono state 35 e domenica, appena 28. Il trend è confermato. Mai di domenica, come diceva quel film. Della cosa occorre farsene una ragione, forse più di una. Nel caso della chiromanzia di persona non telefonicamente esaudita, la prima risposta ovvia è che anche loro, povere tuse, hanno diritto al weekend. Ma se il weekend se lo scelgono uguale agli altri, è anche segno che durante il weekend i clienti diminuiscano. La cosa non può funzionare allo stesso modo nel caso del sesso e della chiromanzia esauditi invece telefonicamente. Un telefono c'è ovunque, si telefona da ogni dove, nel weekend si dovrebbe avere più tempo per sé e per i propri svaghi, sempre che svaghi siano. Sì, ma chi paga? Il punto cruciale è tutto qui. Nel weekend pago io. Durante la settimana potrebbe pagare qualcun altro, per esempio l'ufficio, l'azienda presso cui si presta la propria opera, compresa quella telefonica. E chi non lavora? Per esempio i pargoli in cerca di un'emozionante chiacchiera, che so io, con Cicciolina o con Ivor Lovsky. Nel weekend ci sono a casa i genitori. E dunque eccoli orbati della privacy necessaria per una telefonata così impegnativa. Sì, chi paga fior di milioni per propagandare questo servizio non sarà un fine sociologo, ma i suoi polli li conosce benissimo. Il suo messaggio è chiaramente rivolto a colui che può fare una cosa senza pagarne le conseguenze. Colui che, in altre parole, vive al di sopra dei suoi mezzi. Ed ecco spiegato perché tutto ciò avviene oggi e in Italia. Oggi gli annunci sono saliti a 18, 18 per il sesso per l'esattezza e 2 per l'astrologia. Più la lira scende, più il sesso sale. Ma